America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Londra, Mario Platero. Siamo arrivati nella capitale britannica al seguito del presidente Obama, in anticipo e con un viaggio piuttosto avventuroso, perché ieri notte, mentre ci trovavamo a Dublino, dopo che il presidente ha fatto questo suo grande, straordinario abbraccio di folla con gli irlandesi, nuovi fratelli di sangue, abbiamo avuto il problema della nuvola, la solita nuvola di cenere in arrivo dall'Islanda. Questa volta dal vulcano Grímsvötn, sempre nomi naturalmente impronunciabili. Ebbene, siamo partiti in anticipo, dovevamo partire questa mattina per arrivare a Londra in tutta calma, invece siamo partiti in fretta e furia ieri sera da Dublino. Il presidente ha saltato la cena che doveva fare con le autorità irlandesi e anche lui è partito molto prima per Londra. Visto che gli incontri politici ancora debbono avvenire qui a Londra, vorrei darvi uno spaccato di quello che è successo ieri in Irlanda, a Dublino e soprattutto a Monigal. You think it's ready? Yes. Yes. Whatever. No, I mean, I want to get a perfect. Poco prima di andare in piazza, Barack Obama si era recato a Monigal, questo paesino 300 anime, minuscolo. Ci sono stato domenica, un'unica strada centrale con una schiera di case bianche da una parte e dall'altra, e poi questa birreria, questo Ollie's Hayes Pub. Era il momento in cui Barack Obama stava per bere questa birra rigorosamente scura, una Guinness. Dall'altra parte del bancone c'era Ollie, appunto il padrone del pub, e le risate del signor Ollie alle battute del presidente erano davvero irrefrenabili. Quando si è trattato di bere, il presidente ha preso un sorsino di questa birra scura, tant'è vero che quando poi ha rimesso il bicchiere dritto si vedeva che ne aveva preso appena un dito, mentre invece Michelle si è fatta una bella sbevazzata, cioè da vera irlandese, anche se d'adozione nel suo caso, ha ingollato almeno 3 dita di birra e dunque ha battuto il marito sulla distanza, cosa che è stata immediatamente notata da tutti gli osservatori irlandesi. This little country that inspires the biggest things, your best days are still ahead. Ecco, avete sentito Obama, molto caricato, l'ho visto veramente sereno, lontano da quelli che sono stati i problemi che l'hanno un po' aggredito, soprattutto sulla questione medio orientale, prima della partenza da Washington. Il presidente si rivitalizza quando può avere questo straordinario abbraccio popolare, come quello che ha avuto ieri a Green College, nel cuore di Dublino, nel centro della città, dove ha trovato appunto questi suoi nuovi fratelli di sangue. Ha fatto un discorso di retorica molto popolare. Ha detto Barack Obama: se non ci fosse stata la forza di questo sogno dietro le motivazioni che hanno spinto mio padre e questo mio antenato a lasciare i loro paesi e a venire in America, probabilmente non sarei oggi qui davanti a voi. E poi c'è stata un po' la sostanza di questo discorso, perché dietro la retorica Barack Obama ha anche voluto dare un messaggio di quelli che sono i temi forti nel suo incontro di oggi pomeriggio con David Cameron, avverrà fra un paio d'ore, e di quelli che saranno al centro delle discussioni al vertice di Deauville, al G8 di Deauville in Francia. Questo ha detto il presidente. You, the Irish people, persevered and you cast your votes and you made your voices heard for that peace and you responded heroically when it was challenged and you did it, as President McKinley has written, for all the apparent intractability of our problems. Voi irlandesi avete dimostrato che la pace e il superamento delle differenze ataviche sono possibili grazie al dialogo e alla perseveranza. E un riferimento fin troppo chiaro alle recenti polemiche, soprattutto con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con cui è stata accolta l'iniziativa di Obama per il processo di pace in Medio Oriente. Ecco, non sono proposte concrete, però sono osservazioni che rimbalzano pur sempre nei corridoi del Congresso, dove è in corso un braccio di ferro per ridurre il disavanzo pubblico americano, e in quelli delle tesorerie europee assillate dalle difficoltà, oltre che dall'Irlanda, anche della Grecia e del Portogallo. Oggi pomeriggio con David Cameron naturalmente Barack Obama parlerà anche di Medio Oriente, chiederà la sua adesione a questa posizione per cercare di accelerare il dialogo. La situazione resta molto delicata. Una curiosità: proprio nelle stesse ore in cui Barack Barack Obama parlerà con David Cameron, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, su invito del presidente della Camera repubblicana John Boehner, si preparerà a pronunciare un discorso sulla stessa tematica davanti al Parlamento americano riunito in seduta plenaria. Una partita delicata dunque in evoluzione, che ha sempre più per la Casa Bianca risvolti di politica interna oltre che di politica estera. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. I Beach Boys, grandissimo, grandissimo, grandissimo gruppo americano, potrebbero riunirsi, fatto storico questo in occasione del 50° anniversario della loro band quest'estate. Nello stesso periodo è prevista l'uscita di Smile, un album registrato alla fine degli anni 60 e mai pubblicato, e dunque in onore dei Beach Boys, del loro 50° anniversario, ma anche in onore di questi incontri del G8 in arrivo, della necessità di portare avanti il dialogo, come dice Barack Obama, dei Beach Boys sentiamo Good Vibrations, buone vibrazioni, un auspicio per tutti. Da Londra è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.